Mi fa molto piacere illustrare brevemente questo incontro a cui teniamo molto. Sono infatti presenti alcune delle nostre ospiti molto importanti che si sono sempre spese per il riconoscimento del diritto internazionale contro gli abusi e le violenze che le donne in molte parti del mondo subiscono, come Barbara Spinelli, come Zahra Tofi, come la giornalista Marta Serafini, come Marta Monticelli che ci ospita nella prestigiosa sala del Palazzo Comunale, e anche il CISDA, che è un'organizzazione, un'associazione di donne fortissima, che lavora in particolare sui temi della violazione dei diritti umani e dell'apartheid di genere in Afghanistan. Orlando da sempre, da molto tempo, fin dalla sua fondazione, ha proposto incontri, precisazioni assolutamente necessarie per far conoscere le situazioni di oppressione che le donne hanno subito in molte parti del mondo, e in particolare sotto gli occhi di tutti è presente le tre nazioni, i tre stati che oggi noi affrontiamo, che sono appunto l'Afghanistan, l'Iran e la Palestina, con la guerra che è presente purtroppo da molto tempo in questo paese. Si affrontano e si predispongono anche, come dire, un riconoscimento straordinario alle donne che in questi anni, nei tre paesi che noi affrontiamo, hanno continuato a manifestare, sono andate nelle piazze, sono andate nelle strade, subendo le violenze e subendo gravi violazioni della libertà personale, hanno continuato coraggiose, sempre presenti. Penso alle donne in Iran, penso alle donne in Afghanistan, ma anche alle donne palestinesi che stanno veramente subendo in questo tempo una situazione di violenza, di lutti e di rovine. L'associazione Orlando è vicina a queste donne, le sostiene e chiede il riconoscimento del loro valore e del loro coraggio. Infatti c'è anche proprio un tema giuridico che riguarda poi appunto il riconoscimento dell'apartheid di genere. Sì, l'apartheid spesso viene considerato su in chiave razziale, ma c'è anche una questione di segregazione legata al genere. Assolutamente. E uno dei punti che ci teniamo particolarmente precisamente sul paese dell'Afghanistan, che ha veramente subito in questi anni sistematicamente, con l'arrivo di nuovo del governo dei talebani, un processo di eliminazione praticamente di tutti i diritti, delle libertà, è stato negato il diritto allo studio, il diritto alla salute, proprio in quanto donne, e il diritto a poter esprimere la propria volontà di studiare, di lavorare, di crescere, di essere istruite, e se non accanto a un uomo, se non con la presenza di un uomo, un fratello, un marito o un padre. Il CISDA ne riconosce pienamente la validità e ha aperto un processo molto forte a livello internazionale per il riconoscimento di un apartheid di genere per le donne afghane. Siamo molto contenti di averlo con noi, perché con CISDA noi stiamo lavorando da tempo con incontri e con il sostegno alle loro attività. Domani mattina, sabato 29 marzo, alle 9:30, presso Palazzo D'Accursa e la Sala Ziani, con il patrocinio del Comune di Bologna, Associazione Orlando, che è un'associazione storica bolognese che si occupa dei diritti contro le discriminazioni sulle donne.